in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Moltissime ancora le aperture oggi sul lato di terrorismo, strage, chiamiamola come vogliamo, anche se poi adesso già sappiamo che l'autore è stato uno solo, un ragazzo di 18 anni, quindi chiamarlo atto di terrorismo forse non in senso classico, comunque strage, perché i morti, compreso lui, sono 10. E la maggior parte dei giornali ha ancora molta cronaca su questo e anche naturalmente tante analisi. Il Sole 24 Ore apre però sul G20 in corso in Cina. Il tema che si è discusso di più è la Brexit, la decisione della Gran Bretagna e del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea, scaturita dal referendum del 23 giugno. Il titolo G20 in pressing su Londra. Viene riportato nel sommario anche una dichiarazione del nostro ministro dell'economia, che naturalmente partecipa, come tutti i ministri dell'economia e delle finanze dei 20 paesi più industrializzati del mondo, Padoan, che ha detto: gli scenari sono incerti, vanno chiariti i tempi di uscita dall'Unione Europea. È uno dei primi esercizi di previsione che sono stati fatti in questo vertice, è quello sulla crescita per il 2016 e per il 2017. Lo schema sulla prima pagina del Sole 24 Ore fa capire come sia ancora la Cina a trainare di fatto l'economia mondiale. La Cina è la seconda economia del mondo dopo gli Stati Uniti. Le previsioni di crescita per il 2016 sono del 6,6%, quelle per il 2017 del 6,2%. Seguono appunto gli Stati Uniti con 2,2-2,5, indietro il Regno Unito, l'Eurozona 1,6-1,4, e tra queste cinque zone quella che prevede di crescere di meno è il Giappone, con 1,03 nel 2016 e 1,01 nel 2017. Sulla strage a Monaco di Baviera la cronaca, e poi due commenti, anzi tre: Il tempo per riflettere di Ugo Tramballi, Gli idioti dell'orrore di Alberto Negri, e poi un reportage di una serie di considerazioni di Carlo Bastasin, che in Germania ha vissuto per tanti anni, ha anche scritto un libro sulla Germania post crollo del muro, e riflette sulle parole della cancelliera Angela Merkel. Il titolo del pezzo è: Merkel assicura senza alzare i toni. Per la consueta lettera al risparmiatore della domenica, richiamata in copertina, che poi trovate a pagina 16, una pagina intera di analisi di un bilancio per dare informazioni su un singolo titolo quotato appunto al risparmiatore, all'investitore. Vittorio Carlini questa settimana ha scelto BS, che è un'azienda che opera nel mercato delle macchine, dei sistemi per la lavorazione di legno, vetro e pietra, ma che sta pensando di diversificare anche nella plastica. La sfida è accelerare le vendite negli USA e crescere in Cina. Corriere della Sera, come vi dicevo, uno dei molti giornali che proprio apre sulla strage, la tragedia di Monaco, strage di ragazzi per un'ossessione. Si è ormai capito, infatti l'avete sentito ieri nei GR, che questo killer aveva 18 anni e problemi che vengono definiti in alternanza psichici, psichiatrici, che poi non sarebbe proprio la stessa cosa, e molti dicono che si sia ispirato a Breivik, lo ricorderete, il killer dell'isola di Otoa, che 5 anni fa uccise a un raduno dei giovani del partito di centrosinistra finlandese quasi 100 ragazzi. Sempre in copertina del Corriere della Sera, subito sotto il titolo principale, una foto scattata ieri a Kabul, dove c'è stata un'altra strage con 80 morti, forse anche di più, perché ci sono altre, tra l'altro 200-250 feriti, a un corteo di una minoranza hazara sciita, che tra l'altro era in piazza per una questione non religiosa né politica. Semplicemente chiedevano che l'estensione di una rete elettrica di prossima costruzione passasse anche per le zone in cui abitano loro. Due kamikaze, o uno, non si capisce ancora bene, coperti da un burka, si sono fatti esplodere, e appunto le vittime sono 80, ed è il più grave massacro dal 2001, scrive Michele Farina sulla prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, il killer che odiava i ragazzi, e anche in questo caso molte analisi, una è di Massimo Recalcati, che è uno psichiatra, il terrorismo degli psicopatici, lo trovate poi a pagina 5, e anche in questo caso c'è una foto scattata ieri, subito dopo questo attentato a Kabul. La stampa, la trappola del killer di Monaco. E anche qui si racconta come Ali Sombolì, 18 anni, di origine iraniana, le prime cose che si sanno anche dai racconti dei compagni di scuola è che era stato vittima di bullismo ed era in cura. Ci fermiamo però un attimo per le notizie sul traffico. No, niente, non siamo pronti. Allora finisco di raccontarvi la prima pagina della stampa, che ha invece una fotonotizia diversa, che viene definita il colpo dell'estate. La foto è quella di Gonzalo Higuain, il calciatore di 28 anni, che quasi certamente passerà dal Napoli alla Juventus. E sarà, la cifra si dice di 94,7 milioni di euro, e quindi sarebbe il più grande colpo di calciomercato della storia della Serie A. Sempre dalla prima pagina della stampa, un articolo di Massimo Gramellini, che poi trovate a pagina 7, che prende spunto da un altro articolo scritto dal vice direttore della stampa il giorno dopo la strage di Nizza, quindi il 15 luglio scorso. Il titolo è "Perché chiedo ai musulmani di mobilitarsi", sulla questione che molti giustamente ribadiscono ogni volta che c'è un attentato di matrice islamica, che il cosiddetto Islam moderato dovrebbe fare sentire più forte la sua voce. Adesso però siamo pronti per il traffico. In primo piano. E rieccoci sulle prime pagine dei giornali, siamo arrivati al Messaggero, anche in questo caso l'apertura su Monaco, la strage di un folle in terapia. E nel sommario si riporta una delle frasi di Angela Merkel: nessuno si sente sicuro. In prima pagina viene riportata anche la notizia che in realtà ieri Il Fatto, forse lo ricorderete, aveva anticipato, cioè che lunedì saranno messi online gli stipendi di tutti i dipendenti RAI, e però sono già trapelati alcuni compensi, tutti i giornali li riportano perché sono cifre molto alte, ma questo forse se purtroppo è lo stesso ragionamento che si fa con gli stipendi dei manager, fanno molto effetto, però bisogna vedere se è il mercato che stabilisce questi stipendi. Il problema in particolare degli stipendi della RAI è che sono dipendenti pubblici, è stato fissato da una legge un tetto a 240.000 euro e si scopre che in RAI questo tetto viene abbondantemente superato da molti stipendi. L'Avvenire fa una scelta secondo me molto giusta, coraggiosa forse anche. La notizia di apertura è la strage di Kabul. Chi piange per Kabul? Punto interrogativo. Il Daesh colpisce gli sciiti in piazza, 80 morti. E poi viene riportato naturalmente quello che si sa finora della strage di Monaco. A Monaco, strage di un ragazzo, tra virgolette, disturbato. E poi sempre in prima pagina, sempre a proposito di queste scelte dell'Avvenire, a volte diverse da quelle degli altri giornali, che però hanno veramente il pregio di informarci su fatti che a volte vengono ignorati dalla grande stampa, cupola di trafficanti di migranti e organi, è questa inchiesta di Paolo Lambruschi che racconta come ci sia un libico a capo di questa organizzazione che specula appunto sulla carne umana. Dal secolo XIX, vi segnalo una notizia che voi trovate anche su altri giornali, però il secolo XIX è il giornale di Genova, quindi la segnalo da qui, anche perché il secolo la mette in prima pagina. C'è un famoso museo di Genova, e a Palazzo Reale, che ha sempre delle mostre stupende. Erano 5 custodi su 7 erano malati, e allora la direttrice, che tra l'altro stava facendo jogging, è stata avvertita di questa emergenza, si è precipitata al museo e ha fatto lei da cicerona. La corsa della direttrice per non chiudere il museo, in prima pagina appunto, questa la direttrice che è corsa a Genova da Recco, che non è lontanissimo da Recco, ma comunque si è precipitata a Palazzo Reale, e ancora con la tenuta da jogging, Serena Bertolucci, questo è il suo nome, si è appunto si è messa a fare la cicerona. Il giornale sostanzialmente apre sulla questione della RAI. Ecco i super stupendi RAI pagati col canone in bolletta, ma in realtà sotto nel cosiddetto palchettone, la parte più alta della prima pagina, c'è una foto di una ragazza che depone dei fiori dove c'è stata la strage di Monaco. Il titolo: "Mondo ostaggio dei folli, il califfo festeggia", e l'articolo è del direttore Alessandro Sallusti. Libero titola: "Più immigrati uguale", proprio il simbolo dell'uguale, "più attentati", La tesi spiegata da Andrea Morigi è che l'Italia non è ancora stata colpita perché gli islamici sono meno numerosi rispetto ad altri paesi, ma soprattutto perché non regala la cittadinanza a chi nasce qui. Così possiamo cacciarlo se sgarra. Peccato che la sinistra voglia introdurre lo ius soli, cioè appunto il diritto, letteralmente dal latino il diritto del suolo, cioè appunto se si nasce su suolo italiano si ha subito il diritto di cittadinanza. In realtà ci sono molte proposte di legge, nessuna delle quali è ancora stata esaminata seriamente dal Parlamento, e vedremo insomma se al ritorno dell'estate, anche sull'onda di questi attentati, si troverà una strada per integrare meglio gli immigrati che comunque vengono per esempio per lavorare. L'unità, un'altra Europa è possibile, il riferimento è a quello che l'unità considera il grande avvenimento di ieri, ma forse è giusto così visto che l'Unità è un giornale di partito, cioè l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, da cui Renzi ha lanciato la sua grande sfida, così la definisce l'Unità, cambiare le politiche dell'Unione Europea. L'intervento domenicale di Walter Veltroni, un po' pensiero laterale, definiamolo così, è sulla mafia, la lotta alla nuova mafia. E poi in prima pagina anche il fatto che finalmente ci sono i decreti attuativi della legge sulle unioni civili, e quindi ci saranno i primi sì tra coppie dello stesso sesso in molti comuni già ad agosto. Per esempio Bologna e Milano hanno già aperto alle prenotazioni. Il manifesto La febbre dell'odio, e anche in questo caso la foto è di alcune persone che depongono dei fiori sul luogo della strage. E poi sopra, subito sopra, un articolo sulla strage invece a Kabul. Il manifesto è l'unico giornale che mette in prima pagina gli avvenimenti in Turchia, di cui, come vi segnalerò più tardi, nei principali giornali italiani, a partire dal Corriere, il più diffuso giornale in Italia, ci sono quelli che definirei dei trafiletti, come se in Turchia non stesse più succedendo niente, mentre avete sentito dal GR che stanno succedendo molte cose. In ogni caso, il manifesto: le opposizioni turche sfidano Erdogan, no allo stato di emergenza. Il riferimento è al fatto che ci sono state delle manifestazioni di piazza coraggiose, perché sapete che ormai la Turchia è in uno stato di emergenza, la polizia può arrestare senza l'autorizzazione di nessuno, quindi una scelta coraggiosa delle opposizioni, in particolare della sinistra del partito HDP, e oggi tocca al Partito Repubblicano, che appunto cercheranno di manifestare con delle manifestazioni di piazza, vedremo con quanta partecipazione, la loro contrarietà alle mosse di Erdogan dopo il fallito golpe, chiamiamolo così, di venerdì scorso. La prima pagina del Fatto Quotidiano ha un'apertura completamente diversa ed è questa: 136 Pokémon ad Auschwitz. Questo il Fatto Quotidiano lo definisce un oltraggio alla Shoah. Io credo che più o meno tutti ormai abbiamo capito che cos'è Pokémon Go, è questo giochino che si può fare scaricando un'app sul proprio smartphone, e poi si gioca a metà tra realtà virtuale e appunto indicazione del telefonino a cercare questi personaggini dei Pokémon in diversi luoghi, dovunque ci si trovi. Questo gioco, si scopre, si può fare persino ad Auschwitz, e Nintendo non ha risposto all'appello del museo del campo di concentramento per in qualche modo bandire i Pokémon da lì, e questa è la notizia del Fatto Quotidiano, che poi riprende anche, visto che come dicevamo l'aveva anticipato ieri, la superclassifica degli stipendi Rai. Una notizia che solo il Fatto Quotidiano ha in prima pagina, anzi proprio solo il Fatto Quotidiano ha, riguarda la vicenda di Giulio Regeni. Ricorderete il ricercatore italiano che era, in realtà aveva un contratto con l'Università di Cambridge, era al Cairo per fare le sue ricerche da ricercatore universitario, era sparito il 25 gennaio, ritrovato pochi giorni dopo, torturato e assassinato. Sono passati sei mesi. Sei mesi dopo l'assassinio di Regeni, l'Egitto continua a ignorare la procura di Roma. È quello che il Fatto Quotidiano definisce un muro di gomma. La Gazzetta dello Sport, ve la cito, ma insomma, come potete immaginare, la notizia è quella di Higuain, il titolo: Higuain Juve, we are, puntini puntini, non the champions, ma da champions, perché il sogno naturalmente è quello che la Juventus completi il suo palmarès eccezionale degli ultimi anni con la vittoria nella Champions League, e questo magari anche grazie a Higuain, che nello scorso campionato ha fatto una quantità di gol incredibili, mi sembra di ricordare 36, quindi insomma si spera molto in questo giocatore. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali e torniamo sul Sole 24 Ore. Che ha due articoli, visto che abbiamo parlato di Pokémon, due articoli su Pokémon. Uno in realtà è richiamato anche in prima pagina e si intitola Pokémon Go per Nintendo un tesoro da 15 miliardi, perché da quando è stata lanciata questa application, che da subito ha avuto un successo incredibile, il titolo in borsa ha guadagnato il 116,71%, quindi la capitalizzazione è aumentata di 15 miliardi. E sulla prima pagina di Imprese e Territori si prende spunto anche da questo Pokémon Go per parlare di innovazione e di come a volte appunto l'innovazione tecnologica sia un volano straordinario. Pokémon Go, il Made in Italy e l'innovazione. È un articolo appunto di tre professori della Bologna Business School, Max Bergami, Marco Roccetti e Maurizio Sobrero. Ma il titolo principale riguarda la birra, un mercato che è andato molto bene nel 2015. E anche nel 2016 le birre speciali spingono i consumi, a proposito di creatività, perché negli ultimi anni, e forse chi segue il Gastronauta anche ne ha sentito parlare, sono nate tantissimi tipi di birre diverse e hanno molto spinto il mercato e l'export. Fino allo scorso maggio le vendite crescevano del 6,9% grazie a un'offerta innovativa che punta su birre regionali e selezionate. Nel 2015 l'import è balzato del 12% a volume e del 10% a valore, quindi ne esportiamo tante, ma ne importiamo anche tante. Una cosa molto pratica, ma che riguarda tanti di noi, che il 22 di luglio, quindi sabato, venerdì scusate, è scaduto il termine per l'invio regolare del 730, quindi titola il dorso di norme, la sezione di norme tributi di oggi, parte la corsa alle correzioni del 730. I contribuenti hanno tempo fino al 25 ottobre per modello e relativa documentazione. Tutti i dettagli li trovate a pagina 15 del Sole 24 Ore. La copertina di Finanza e Mercati è dedicata ancora una volta alla vicenda RCS. Domani riaprono i mercati e vedremo se la Consob, che ha già dato il via libera venerdì alla procedura, rigettando sostanzialmente i ricorsi fatti fino a quel momento, ma poi venerdì ne sono arrivati altri, quindi il titolo: Cairo pronto per la svolta in CDA, va avanti l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio, che si concluderà il 28 luglio. Tra i possibili dimissionari del CDA in questo momento di RCS ci sono l'attuale amministratore delegato Cioli e il presidente Costa. Un'altra notizia interessante, che ha solo il Sole 24 Ore: Simone Filippetti ci racconta come ci potrebbe essere presto un'altra acquisizione nel mondo dell'editoria. La nave di Teseo, che sapete è la casa editrice fondata da Elisabetta Sgarbi, che è l'ex numero uno di Bompiani quando il Mondadori ha acquistato tutte le case editrici del gruppo RCS Bompiani, e che ha diverse sigle, e appunto la nave di Teseo sarebbe interessata proprio alla Bompiani. A proposito di mega stipendi, ecco, qui ci sono a pagina 19 Gianni Dragoni ci racconta gli stipendi dei super manager. I buoni risultati della borsa nel 2015 spingono gli stipendi dei super manager. Al primo posto c'è Federico Marchetti, fondatore, presidente e amministratore legato di Yoox Net-a-Porter, che è il più grande sito di e-commerce di moda e non solo europeo, 62,931 milioni. Supera Marchionne, 60 milioni, e supera al terzo posto, quadruplica, Fulvio Montipò, presidente amministratore delegato di Interpump, che guadagna solo con 10 virgolette 15,9 milioni all'anno. E su queste cifre ci lasciamo un attimo anche per le previsioni sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei quotidiani, siamo arrivati al Corriere, che a pagina 5 ricorda la testimonianza della mamma di uno dei due killer della strage di Columbine. Forse ricorderete, una strage in una scuola americana in Colorado, a Denver, si chiamava appunto Columbine High School, nel 1999, 12 morti. Gus Van Sant poi ne trasse anche un film, Elephant, nel 2003, che vinse la Palma d'Oro a Cannes, e naturalmente anche in quel caso lo stupore era stato grandissimo. I due ragazzi, se il killer di Monaco aveva 18 anni, questi due ragazzi, Dylan Klebold e Eric Harris, ne avevano 17 e 18. E il Corriere appunto ricorda la testimonianza, ricorda quel fatto e riprende la testimonianza della mamma di uno di questi due ragazzi, e il titolo della testimonianza è: a Columbine pure mio figlio che sparò fu una vittima. E un po' il senso è che non si capisce cosa succeda nelle teste, nei cuori di questi ragazzi così giovani per spingerli ad uccidere i loro coetanei. Sempre sul Corriere della Sera, Danilo Taino, che dalla Germania è stato corrispondente per molti anni, analizza l'intervento della cancelliera, e il titolo del suo articolo è: la nuova partita di Angela, affrontare l'insicurezza con un progetto europeo. Tra l'altro lei ha ribadito ieri questa idea di offene Tür, cioè di porta aperta, e tanto che tra l'altro di porte aperte della Germania, però questo è anche un riferimento all'hashtag con il quale su Twitter, nelle ore successive alla sparatoria, ricorderete, in cui la polizia invitava tutti anche su Twitter a restare a casa, e con questo hashtag le persone dicevano, come era successo del resto a Parigi dopo la strage del Bataclan, noi siamo qui, venite, chi abita lontano e vuole appunto rifugiarsi, venite da noi, la porta è aperta. Vi dicevo come la vicenda della Turchia sia misteriosamente sparita oggi dai quotidiani. Il Corriere ha un pezzettino a pagina 11 di Andrea Di Castro: decreto Erdogan, scuole chiuse, fermato il nipote dell'imam Gülen, questo e basta. Un altro risvolto della strage di Monaco è quello di capire dove Ali Somboli avesse trovato la pistola. Allora Fabio Tonacci ci racconta che probabilmente è arrivata dal deep web, quella parte che credo che il Fatto Quotidiano abbia fatto tutta una serie di articoli su questa parte oscura di internet, a cui si accede solo se si hanno certe capacità informatiche. Non è così facile, non basta digitare un indirizzo, però in questa deep web ci sono molti commerci illegali, tra cui quello di armi. E tra l'altro ci ricorda Fabio Tonacci che in Germania la Waffengesetz, la legge quadro sulle armi, è stata scritta e riscritta dopo le stragi delle scuole di Erfurt nel 2002, 16 morti, e di Winnenden, 15 morti nel 2009. Per detenere una pistola in Germania bisogna essere maggiorenni, cittadini tedeschi da almeno 5 anni, e gli under 25 devono sottoporsi a visita psichiatrica. Sono vietate le automatiche, i fucili a pompa e i visori notturni, quindi chiaramente la pistola che aveva questo ragazzo non era stata acquistata legalmente. Una pagina intera di Alberto Stabile sulla strage a Kabul, e questo in questo caso non è neanche un trafiletto, non so nemmeno come chiamarlo, una specie di breve, sempre a pagina 7: allungato il fermo di polizia, in manette il nipote di Gülen. Questa è come Repubblica liquida oggi la questione turca. Una interessante inchiesta invece di Repubblica riguarda le pratiche mediche nei reparti di maternità per usare l'anestesia epidurale, sostanzialmente per cercare di arrivare a un parto indolore. Il titolo di questa inchiesta di Michele Bocci è: viaggio nel paese del parto indolore, purtroppo al sud è ancora una chimera. Per esempio a Napoli nessuna struttura la pratica perché è troppo costosa e impegnativa. A Bari è un privilegio per poche perché si paga fino a 1.500 euro. A Palermo la situazione è in miglioramento. A Roma si paga un ticket di 70 euro, che è sempre un ticket di 70 euro, ma almeno non sono 1.500, mentre ci sono città del nord dove la situazione va meglio. A Torino per esempio personale adeguato, e però restano molto alti i cesarei, un'altra eccezione italiana. Noi abbiamo un numero di cesarei esagerato, tra l'altro il cesareo è una pratica, è una vera e propria operazione, è una pratica anche abbastanza pericolosa che dovrebbe essere indicata, dovrebbe essere praticata solo in alcuni casi, invece viene spesso, appunto in Italia abbiamo dei numeri che sono straordinariamente alti rispetto ad altri paesi. Una bella inchiesta della Stampa invece riguarda gli integratori, anzi quella che la Stampa chiama l'ossessione degli integratori: barrette e pillole al posto del cibo. Pensate, in Italia questo comparto ha un giro d'affari che sfiora i 3 miliardi e ogni italiano consuma 4 confezioni all'anno. È arrivato un allarme dagli Stati Uniti perché come tutto ciò che si fa in eccesso può diventare pericoloso. C'è un elenco i principali canali dove si possono comprare e soprattutto le conseguenze che si possono avere, e ce ne sono veramente tante. La spesa in Italia, pensate, è la prima in Europa. Dal Messaggero Vi segnalo invece anche in questo caso qui il Messaggero ha un articolo un po' più ampio rispetto agli altri giornali e titola Turchia, Erdogan rilascia 1200 militari, avrete sentito anche nei GR, sono quelli che vengono considerati soldati che avevano partecipato alla rivolta pensando a un'esercitazione e senza, così ha detto Erdogan, senza avere delle responsabilità vere e proprie. E poi però nella stessa pagina un interessante approfondimento di Sara Menafra, rifugiati sull'accoglienza, potere e risorse ai comuni. C'è un nuovo piano concordato con il Ministero dell'Interno e Associazione Nazionale dei Comuni, l'ANCI, che verrà esaminato nei dettagli la prossima settimana. Toccherà in larga parte ai sindaci la scelta sulla distribuzione degli stranieri nei territori di ciascun comune. E poi un altro approfondimento richiamato anche in prima pagina che riguarda i costi delle spiagge. Ricorderete forse settimana scorsa la polemica sul fatto che l'Unione Europea contesta il modo in cui vengono estese le concessioni balneari nelle regioni dove appunto le spiagge sono a pagamento e quindi ci sono i gestori delle spiagge. Ecco, adesso per quanto riguarda proprio i prezzi, da Venezia a Porto Cervo spiagge sempre più salate. La crisi non tocca il caro ombrellone, sapete che noi tecnicamente siamo quasi in deflazione, però in realtà i prezzi delle spiagge continuano a salire. A Lido si paga fino a 355 euro al giorno, a Forte dei Marmi si arriva a 290. Però quelli che vengono definiti i bagni di lusso offrono persino, pensate, una cassaforte, il wifi, e i prezzi appunto sono sempre in crescita. La copertina di Macro del Messaggero, che è la sezione culturale in generale, la cito insieme agli altri supplementi culturali, però il tema qui è secondo me molto interessante, il titolo Il Matador non abita più qui. Il tema naturalmente è quello delle corride, perché le hanno messe al bando le Baleari e la Catalogna. Ricorderete il 9 luglio è morto un torero, non accadeva da moltissimi anni, un giovane torero, si chiamava Victor Barrio, e questo ha rafforzato in Spagna il partito di coloro che vorrebbero proprio abolirle, anche se il governo ha varato un piano di tutela dichiarando la corrida un bene di interesse culturale. Però a Madrid e in altre città si chiudono i rubinetti delle concessioni ai fondi. Vengono riportati alcuni numeri per far capire appunto come la pensano gli spagnoli sulla corrida. Il 40% degli spagnoli, che 5 anni fa nell'ultimo sondaggio disponibile difendeva le corride, mentre il restante 60% era indifferente. Dall'Avvenire, oltre a un lungo approfondimento sulla strage di Kabul, ma quello lo trovate anche su altri giornali, ce n'è uno sulla Siria, altra questione dimenticata. In Siria continua la guerra civile, e, tra l'altro a proposito di Pokémon sono circolate le foto di questi bambini siriani con una immagine di un Pokémon e che a metà tra ironia e disperazione dicevano venite a cercarli qua, i vostri Pokémon Go, cioè venite a salvarci, siamo dei Pokémon veri e propri. In ogni caso quello che racconta L'Avvenire, nella battaglia di Mamgi intrappolati 150.000 civili. Le forze appoggiate dagli Stati Uniti sarebbero già entrate nella città chiave, definita città chiave, dove il califfato, l'ISIS, ha schierato poche centinaia di miliziani mescolati alla popolazione. L'ONU aveva già lanciato un allarme per 35.000 bambini. E poi, come ieri, l'Avvenire ricorda, tra l'altro se ne è parlato anche ieri in Si può fare, di questa questione, perché domani alla Camera inizia l'esame del testo per la legalizzazione delle droghe leggere, in particolare della cannabis. Ci sono molti pareri contrari da parte di comunità terapeutiche, il dibattito comunque è aperto e l'Avvenire, che è chiaramente schierato contro la legalizzazione della cannabis, dà appunto voce a queste comunità e ad alcuni suoi ospiti. Un approfondimento bellissimo, secondo me, su un tema che è ancora di estrema attualità, che è quello dei manicomi. Lo spunto viene da un libro che è appena uscito di Simona Vinci e che ricostruisce il caso di un lager, di un manicomio, ma che possiamo tranquillamente chiamare lager, in Grecia, che era addirittura destinato solo ai minorenni e che venne chiuso negli anni 90. Naturalmente non si può non citare in tutti questi casi lo psichiatra Franco Basaglia, che fu uno dei primi a teorizzare la totale inutilità dei manicomi, che tecnicamente sono ospedali psichiatrici. Questa grande opera in tre volumi ricostruisce tutte le vicende umanamente tragiche, ovviamente, del disagio mentale e dei suoi tentativi di cura sulla linea di confine tra normalità e anomalia. E purtroppo sappiamo che per tantissimi disturbi psichiatrici, per esempio la schizofrenia, di fatto non c'è una cura, si è migliorato un po' la psicofarmacologia, ma parlare di cura naturalmente è impossibile. Non naturalmente, diciamo che per ora è impossibile. Sul giornale un approfondimento sulla giustizia, da una parte un caso di cronaca a Palermo dove un pubblico ministero è stato preso a pugni dopo una sentenza di omicidio con la quale i familiari dei due condannati non erano d'accordo. E poi c'è un allarme lanciato dal presidente del TAR di Catania, Antonio Vinci Guerra: siamo 15 magistrati con 42.000 cause, quindi le difficoltà della giustizia, ricordiamo che è in corso da quando il governo Renzi si è insediato, è in corso la costruzione di un testo per la riforma della giustizia, che però è uno dei temi più controversi in Italia. Ci lasciamo però un attimo per un altro ultimo aggiornamento sul traffico. No, non siamo pronti. Allora restiamo su Libero, perché qui c'è un fact checking, un data checking si potrebbe chiamare, con le cifre di tutti gli stranieri in migliaia che ci sono in Europa, con alcuni dei paesi. Il titolo della sintesi che poi ne fa Tommaso Montesano è: i tedeschi stanno seduti su una bomba, gli stranieri in Germania sono 7 milioni e mezzo, e c'è in questo schema appunto la differenza, e sono tutte differenze positive tranne che in Spagna, tra il numero di stranieri nel 2014 e quello nel 2015. Adesso però davvero ci fermiamo per il traffico. In primo piano. E rieccoci ancora nelle pagine interne dei giornali. Vi dicevo come mi abbia colpito che oggi si parla poco di Turchia. Il Fatto Quotidiano è in realtà un approfondimento di una pagina di Marco Barbonaglia, tra l'altro una voce nota a Radio 24. Il titolo è CNN Turk, TV di Stato e social, così Erdogan diventa mito. Nel sommario poi bastone e carota, perché è stato arrestato, questo lo hanno riportato anche gli altri giornali, un nipote dell'imam Gülen, che sapete è l'autoesiliato imam, ex alleato di Erdogan, ora suo grande nemico, autoesiliato negli Stati Uniti. Sono stati liberati, lo abbiamo letto, 1200 soldati, perché la dichiarazione è stata: distinguiamo chi ha sparato sulla folla e chi no. Del approfondimento su Giulio Regeni vi ho detto, lo trovate poi a pagina 9 del Fatto Quotidiano. Anche l'Unità ha un bel approfondimento, e in questo caso riguarda la possibile adesione all'Unione Europea della Turchia, di cui si parla da molti anni. Ankara ieri ha confermato la richiesta di ingresso nell'Unione Europea e l'accordo per limitare l'arrivo dei migranti. E solo pochi giorni, quando Erdogan aveva detto che stava pensando di ripristinare la pena di morte, che lui stesso nei primi anni del suo governo aveva abolito, Angela Merkel aveva subito detto: se veramente succede, fine dei negoziati per l'entrata dell'Unione Europea, della Turchia nell'Unione Europea, e vedremo nei prossimi giorni. E mi serve questo articolo che sto per citarvi per passare ai supplementi culturali, è sempre dal Fatto, è un ricordo di Camilla Tagliabue di Franca Faldini, che è scomparsa da qualche giorno, è stata l'ultima compagna di Totò. Quando si conobbero lei aveva 21 anni, lui 54, e fu un grandissimo amore, una bella storia raccontata appunto a pagina 13 dal Fatto Quotidiano. Tra l'altro poi Franca Faldini si occupò per tutta la vita di cinema, di storia del cinema, e molte delle sue memorie poi le raccolse in un libro scritto con Goffredo Fofi, Totò, l'uomo e la maschera, che fu pubblicato nel 77, poi ripubblicato negli anni 90 da Baldini Castoldi. Lo trovate, credo, ancora su internet. Una donna di una bellezza straordinaria, invecchiata benissimo, senza trucchi, possiamo dire così, e che appunto poi visse da quando Totò morì in poi, nel ricordo, anche nel cercare di preservare la memoria del grande attore e autore napoletano. Passiamo alla copertina della domenica del Sole 24 Ore. Cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Satira, ed è la citazione, si parte da una citazione di un opuscolo di Jonathan Swift, intitolato La battaglia dei libri. La citazione è questa: la satira è una sorta di specchio dove chi guarda scopre la faccia di tutti tranne la propria. Pochi sanno che Jonathan Swift, il celebre autore dei Viaggi di Gulliver, era stato un pastore anglicano. Aveva così potuto sbeffeggiare anche la noia mortale di certe prediche, scrivendo un opuscolo sul metodo per far addormentare i fedeli durante un sermone pomeridiano. Un'ironia che aveva pervaso anche il suo capolavoro, ma che aveva raggiunto livelli di sarcasmo violento nella sua modesta proposta, nella quale, con linguaggio da economista, proponeva di mettere sul mercato le carni fresche dei bambini poveri per il consumo dei ricchi. E da questo opuscolo, appunto, La battaglia dei libri, ho proposto una battuta che non ha bisogno di commento. Sono rarissimi, infatti, coloro che sanno praticare l'autoironia. Le due bisacce della favola di Esopo sono recate sempre da tutti noi, pesante e ben visibile davanti a noi il fardello dei difetti altrui, gettato dietro le spalle e ignorato il carico dei nostri vizi. Memorandum del nostro direttore, nostro di Radio 24, del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, è dedicato alle lettere ricevute dal direttore dopo l'ultimo memorandum, che era un ricordo di Gabriele Pescatore, il grande giurista nonché presidente della Cassa del Mezzogiorno, che è scomparso il 7 luglio scorso a 90 anni, avrebbe compiuto 90 anni in ottobre, e molte delle persone che lo hanno conosciuto o direttamente o indirettamente o ne hanno letto i libri hanno scritto al direttore per dare la loro testimonianza. E quindi il titolo della rubrica Memorandum, che inizia questa volta per raccogliere più lettere possibili sulla copertina del domenicale e continua nella pagina successiva, il titolo è L'esempio di Pescatore, la forza silenziosa della memoria. Ma il pezzo principale è in realtà dedicato a Cesare Beccaria. È un articolo di Vincenzo Ferrone che riguarda, questo a proposito di diritto, questo grandissimo giurista italiano, al quale il suo libro più famoso e più conosciuto si intitola Il suo saggio dei delitti e delle pene, e viene definita una pietra miliare del costituzionalismo illuminista, e secondo Vincenzo Ferrone ancora non se ne capisce l'importanza concettuale. Tra l'altro ricordiamo che nei delitti, in questo libro, due dei tanti temi attualissimi, benché sia un libro del 1700, è che la pena di morte, tutto sommato, non è una soluzione, e che non è la gravità della pena che spaventa o fa diminuire i crimini, ma la certezza della pena. Ecco, noi in Italia siamo, credo, un esempio lampante di come, appunto, la mancata certezza della pena, lo dice spessissimo anche il presidente dell'Associazione Magistrati Camillo Davigo, è la mancanza di certezza della pena che è il vero problema della giustizia. Poi naturalmente ci sono anche pareri diversi. Sempre sulla domenica del Sole 24 Ore, un'interessante recensione di Roberto Casati a un workshop che c'è stato a Parigi, intitolato Gender and Artificial Intelligence, il titolo Maschilisti come robot, perché si scopre che, secondo quello che viene rilevato, un automa idraulico è più facile da accettare se ha voce da uomo, un infermiere se pare donna, così il marketing rinforza gli stereotipi. E a proposito di qui viene chiamato maschilismo dell'intelligenza artificiale, ma poi c'è anche la sua faccia ancora più grave, che è la misoginia. Silvi Quaio recensisce il libro di Paolo Ercolani Contro le donne, e il titolo della recensione è che speriamo in realtà che non sia così: il pregiudizio misogino è invincibile. Per gli altri supplementi, la lettura del Corriere della Sera affida la copertina, come ogni settimana, a un artista. Questa settimana è Laurie Anderson, e il primo articolo di Emanuele Trevi, che è anche uno scrittore e filosofo, è una lunga recensione di un libro di Gianluca Garelli che esplora l'idea filosofica di bellezza. E il titolo, La bellezza solitaria, ha ragione Saffo, ha torto Kant, il giudizio estetico è solo personale. Una recensione di quelle che io chiamo vecchio stile di questo libro, ma che naturalmente parte dal libro, ma offre tanti altri spunti. Marco Ventura, un altro tema che parte in questo caso da un rapporto del Parlamento europeo e un altro pubblicato da un gruppo di deputati britannici: Dio è tornato, nel senso che le guerre di religioni aumentano, ma la libertà religiosa diminuisce, uno dei tanti paradossi della contemporaneità. E poi, visto che abbiamo parlato di tecnologia con Pokémon, Vincenzo Trione, che è critico d'arte, ha curato anche il padiglione Italia dell'ultima Biennale di Venezia, ci racconta i selfie al tempo di Snapchat, che sapete, quella social network, quell'applicazione per te, non è un'applicazione, è un social network proprio, sul quale però le fotografie hanno vita brevissima, e da qui il titolo Una nuova identità ogni giorno. E poi la recensione di una mostra stupenda, credo, no, purtroppo non l'ho vista, ma che è allestita a Parigi fino al 25 settembre all'Istituto del Mondo Arabo. Il titolo della mostra è Giardini d'Oriente dall'Alhambra al Taj Mahal, e il titolo è L'inizio del giardino, perché appunto ci racconta come noi adesso diamo il giardino per scontatissimo naturalmente, ma in realtà non è un'invenzione, un esercizio creativo dell'uomo relativamente recente. E poi, sempre a proposito di verde, molto divertente anche questo, un articolo di Costanza Rizza Casa d'Orsogna, La fine del prato. Falciarlo per un'ora con un tosaerba, prato americano, inquina quanto guidare un'auto per 160 km, per irrigarlo si consumano 34 miliardi di litri d'acqua al giorno, e quindi c'è questa crociata contro, che è un po' il frutto di questo ambientalismo di sopravvivenza che sta prendendo piede sempre di più negli Stati Uniti. La Domenica della Repubblica, invece, la parte, appunto, il supplemento culturale della Repubblica, apre con un'intervista a Jeff Bezos, che l'avete sentito ieri, era in Italia, annunciato grandi investimenti in Italia, moltissime assunzioni. In questa intervista Massimo Russo ci racconta questo visionario, il fondatore di Amazon, che è dalla fine degli anni 90 che è veramente sulle prime pagine dei giornali, e il modello Amazon continua a evolversi e lui continua a mietere successi, tanto che l'intervista si intitola Jeff Bezos, risolvo problemi. Una segnalazione di un libro illustrato che è appena uscito per Gallucci, scritto disegnato da Altan e con i testi di Stefano Benni, è un bestiario fantastico, viene definito un piccolo ma delizioso libretto che racconta animali naturalmente mai esistiti, mi dico due nomi, il bessone e il tordazzo cinese, lo snuffo e il patiro zuavo, avrebbero potuto certamente esistere anche se non li avessimo inventati. E per la serie delle interviste Straparlando, quelle che vi segnalo sempre, di Antonio Gnoli alla Domenica, questa settimana l'intervistato è l'artista greco Yannis Kounellis. Come sempre Antonio Gnoli riesce un po' a far ripercorrere la vita di questi personaggi che lui intervista, che in generale non sono più giovanissimi e quindi hanno anche tantissimo da raccontare. Yannis Kounellis è del 1936, il titolo dell'intervista è Sono un vecchio Ulisse senza Itaca, innamorato della pesantezza dell'arte. L'ultima segnalazione ve la faccio da Alias del Manifesto, a una mostra di Francis Bacon che c'è in questo momento al Principato di Monaco, una mostra del grande pittore inglese, Fisica, brutalità sul lungomare. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora grazie a Peter Bescafè in regia e una buona domenica a tutti voi.